Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la prima della settimana. E allora come parte la settimana? Beh, parte male, mi dispiace dirlo, per i mercati finanziari, nel senso che il calo oggi è più pesante a Milano che altrove, ma è pesante anche altrove. Parigi perde quasi il 3%, Francoforte il 2%, Londra l'1,60%, l'America lo 0,80%. Milano perde il 3,80%, come mai? Beh, intanto perché sono pesantemente negativi tutti i titoli bancari e non tanto il Monte dei Paschi, lo dico subito. Unicredit perde il 7,5%, il Banco Popolare perde il 6,20%, Mediobanca il 5,80%, la Popolare di Milano il 5,60%, Intesa San Paolo il 4,60% e poi il Monte dei Paschi che perde un altro 4,5%. Che cosa è successo? Vanno male le banche soprattutto in Spagna e Italia, ma in generale in tutta Europa, ed ecco perché anche gli altri indici perdono tra il 2% e il 2,5%. Hanno deluso i conti di Commerzbank, poi ne parleremo, e a cascata tutto il settore ne risente. Va male oggi anche Mediaset, che perde il 5,81%. Pesano, vabbè, intanto il titolo moltissimo aveva corso dall'11 dicembre, lo ricordiamo, da quando quindi Silvio Berlusconi aveva annunciato il suo impegno in prima persona nella campagna elettorale, però, e quindi un po' di release ci possono stare, però ci sono anche i dati sugli ascolti televisivi in Spagna che non sono confortanti ancora. Tra i titoli Finmeccanica perde il 6,60%, sto citando società non bancarie, Fiat il 4,90%. L'unico titolo che va bene è Saipem, ma ricorderete cosa è successo una settimana fa. C'è stato oggi incontro in Consob tra il vertice della società e l'autorità di vigilanza sui mercati per indagare sul crollo del titolo dopo l'allarme utili inferiori alle attese. Tra l'altro l'amministratore delegato di Saipem ha rassicurato in un'intervista sulle stime future. Comunque il titolo guadagna l'1,54%, e questo è il fronte mercato e borse. Poi ci sono i fronti di casa nostra che fanno parte anche oggi di questo programma. Da un lato la vicenda Monte dei Paschi, un'intervista che abbiamo realizzato oggi con l'amministratore delegato Fabrizio Viola. Ha detto: la borsa ancora non crede al nostro piano, ma noi non ci stiamo muovendo per cercare nuovi soci, anche perché, ha aggiunto Viola, in questo momento di nuovi soci pronti a investire nel Monte dei Paschi non ce ne sono, e quindi, ed è abbastanza comprensibile. E questo è un fronte. Ma poi vanno avanti le indagini. Interrogato questa mattina a Roma Antonio Rizzo, l'ex funzionario della Dresdner Bank, che già nel 2008 davanti ai PM di Milano avrebbe parlato della banda cosiddetta del 5%, e quindi alla triangolazione tra prodotti derivati che il Monte dei Paschi comprava, magari dando in cambio prodotti sani, e però queste commissioni strane pagate a una terza società, di sospetto forte che quella fosse la stecca per far poi comprare al Monte dei Paschi derivati ad alto rischio. L'ex presidente della Banca Monte dei Paschi, Giuseppe Musseri, è pronto a rispondere a tutte le domande dei sostituti procuratori, ma non in data odierna, perché mancava l'altro difensore, Tullio Padovani. Così ha risposto Fabio Pisillo. E oggi comunque Rizzo avrebbe confermato le accuse degli ex vertici della banca, cioè che esisteva una banda del 5% che prendeva una percentuale illecita su ogni operazione e c'erano pagamenti riservati ai vertici del Monte dei Paschi. Si è scoperto nel fine settimana che sarebbero 40 milioni di euro il totale di soldi scudati, e quindi fatti che hanno beneficiato dello scudo fiscale di ex vertici del Monte dei Paschi. Mi sembra una cifra un po' alta, lo dico con il massimo rispetto, per essere frutto, diciamo, solo dei guadagni, dei bonus, per carità. ma insomma 40 milioni di euro sono un po' tanti, già 20 milioni scudati dall'ex direttore finanziario erano un po' tanti, per quanto possa guadagnare bene un direttore finanziario di una banca, 20 milioni in Svizzera mi sembrano un po' tanti, mettiamola così, e di questo parleremo. Parleremo però in apertura anche dell'IMU, perché è inutile girarci attorno. Ieri abbiamo scoperto qual era, diciamo, il coniglio che Silvio Berlusconi avrebbe estratto dal cilindro. Si chiama appunto IMU, e la proposta: via l'IMU dalla prima casa, restituiremo i soldi. Le critiche degli altri partiti politici, cercheremo però di capire se tecnicamente sia immaginabile oppure no ridare i soldi sull'IMU della prima casa. E ancora, dicevo, i mercati finanziari, e poi la vicenda all'Italia. Tutto avevamo visto nella vita, tranne che un aereo che perde la sua livrea dalla notte al giorno, e cioè l'aereo, la vicenda è nota. È vero che non era che l'ATR 72 operava per la rumena Carpata Air, penso da Carpazzi derivi il nome. Però è anche vero che le foto iniziali avevano la livrea dell'Alitalia sopra. Uno monta su un aereo e vede il simbolo dell'Alitalia, pensa che sia dell'Alitalia, poi non può sapere se opera per conto di, e poi nella notte sono scomparse. Il logo Alitalia della Carlinga è finito sull'erba. L'azienda ha detto che è una prassi che normalmente si usa quando succedono questi eventi. Io non mi ricordo di altri incidenti aerei in cui scomparisse la livrea, diciamo che non è stato il massimo, però c'erano stati nel passato altri contrattempi della stessa compagnia aerea su cui si appoggia l'Italia. Il 28 maggio del 2012, il 12 dicembre del 2012, prima a Firenze all'aeroporto Vespucci, poi all'aeroporto di Pisa, ancora il 4 gennaio, e tra l'altro si è saputo che Alitalia ricoprirà fino a fine febbraio con propri aerei il volo Ancona-Roma, che fino al 17 gennaio scorso era operato da Carpata Air. La decisione era stata presa a seguito dell'incidente dello scorso 17 gennaio, altro incidente, quando un ATR 72-500 nella tratta Ancona-Roma, sempre della Carpata Air ma con la livrea dell'Alitalia, era tornato indietro dopo 45 minuti dal decollo per problemi di pressurizzazione. Da Ancona a Roma 45 minuti era quasi arrivato, ma comunque. E anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri SMS, e poi come sempre la pagina di Focus Economia per Facebook. Allora, mentre in Cina, restiamo sul fronte internazionale, la Foxconn, quello stabilimento gigante dove in Cina si producono i computer della Apple e altri big dell'information technology, pensate che ha 1.200.000 operai che vi lavorano, ha deciso di concedere ai dipendenti, agli operai, un libero voto per eleggere alcuni rappresentanti sindacali. È una svolta concordata col governo di Pechino. Pensate che i consigli di fabbrica, viste le dimensioni dell'impianto, dovrebbero essere circa 18.000 rappresentanti sindacali, perché 1.200.000 operai. E per la prima volta dovrebbero farvi parte anche gli operai delle catene di montaggio. Il tema è molto delicato perché proprio in quegli stabilimenti vi sono state in diversi periodi decine e decine di suicidi dovuti alle condizioni di lavoro, che avevano preoccupato molto anche il governo comunista cinese. Ancora sul fronte internazionale invece, qui cambiamo tema, Morgan Stanley è tornata a vedere nero sulle prospettive dell'Europa e dell'Italia. Ha diffuso un report che si chiama Now We Are Getting Worried, cioè adesso iniziamo a preoccuparci, e spiega che dopo la pausa garantita dalle mosse della Banca Centrale Europea, la crisi dei debiti sovrani europei può nuovamente esplodere. Due i motivi fondamentali, e tra l'altro su questo, poi una mia riflessione la voglio fare. Comunque, due motivi fondamentali secondo Morgan Stanley: da un lato l'avvio dei rimborsi dei fondi LTRO da parte delle banche, sono 137 miliardi già restituiti, che sottrarrà liquidità ai mercati, e dall'altro l'eccessiva forza dell'euro nei confronti delle altre valute. Tra i campanelli d'allarme segnalati anche l'aumento del tasso interbancario overnight, che funge da riferimento per misurare i rendimenti dei titoli di Stato a breve scadenza. Allora, mi sembra che la situazione sia già abbastanza complicata. Morgan Stanley ci dovrebbe anche dire, oltre a fare un report, quali sono le sue posizioni sull'Europa. È corta e lunga, cioè crede che l'euro si rafforzerà e che i rendimenti caleranno o scenderanno. Cioè, sarebbe interessante sapere questo prima di dare un report che dice adesso ci stiamo preoccupando, anche perché le accuse di un euro troppo forte, allora bisognerebbe capire perché l'euro è troppo forte, perché l'America continua a stampare dollari. Comunque, detta così, mi sembra così un gettare una profezia che si autoavvera. Vorrei capire Morgan Stanley che cosa sta facendo con l'euro, e intanto si becca il nostro gufo. Nel frattempo, pochi minuti fa, come ricordava il nostro GR, il Wall Street Journal scrive che il Monte dei Paschi da un lato e le promesse di Berlusconi dall'altro pesano sui mercati, stanno pesando sull'andamento dei mercati. E il Wall Street Journal imputa le incertezze di Italia e Spagna come causa principale dell'andamento dei mercati di oggi. Cito per esteso il fatto che adesso l'indice sta perdendo quasi il 4%, è il 3,91%. Dicevamo però che le vendite di titoli bancari oggi sono iniziate dopo i dati di Commerzbank, banca tedesca, un rosso di 720 milioni di euro nel quarto trimestre, peggiore delle aspettative. Il bilancio alla fine è positivo per soli 6 milioni di euro contro i 638 milioni di utile nel 2012. Nel frattempo, come già ricordavamo, verrà nazionalizzata la quarta banca olandese, a dimostrazione, lo dico senza nulla togliere al verminaio che sta uscendo dal Monte dei Paschi, però voglio dire, è inutile dare lezioni agli altri paesi. Non solo Germania, Francia e Gran Bretagna hanno dovuto spendere miliardi, decine, per salvare le loro banche, ma anche la virtuosissima e delle volte un po' spocchiosa Olanda deve nazionalizzare la sua quarta banca, SNS Bank. Lo Stato pagherà quasi 4 miliardi di euro, 3 miliardi e 7, ma non verserà neppure un euro agli azionisti o ai titolari di obbligazioni subordinate. Quindi attenzione che gli azionisti, gli obbligazionisti olandesi non avranno un euro. L'annuncio dell'esproprio è stato fatto dallo stesso ministro delle finanze olandese, Heroen Dijsselbloem, nominato presidente dell'Eurogruppo e falco del rigore di bilancio nei paesi europei. Allora, caro ministro delle finanze, caro falco, come la mettiamo qua? Facciamo i falchi solo a casa degli altri, sull'Italia, sulla Spagna, però quando c'è da salvare la banca olandese tiriamo fuori 4 miliardi di euro quasi, che voglio dire, 4 miliardi in Olanda pesano un po' di più, visto il PIL olandese dei 4 miliardi quasi tirati fuori per il Monte dei Paschi. Dov'è il rigore? Perché non l'avete fatta fallire? Visto che siete così rigorosi. Andiamo avanti per forza. Di Monte dei Paschi, dicevo, parleremo dopo. Sulla Fiat invece continua a montare la polemica sui 19 operai reintegrati per sentenza del tribunale nella fabbrica di Pomigliano. Saranno regolarmente retribuiti, ma resteranno a casa, lo si è appreso da fonte sindacale. La CGIL ha detto che la decisione è sbagliata e illecita, quella di non permettere l'accesso al lavoro ai 19 lavoratori iscritti alla FIOM CGIL. Devo dire che su questo sta montando una polemica. Tra l'altro vorrei anche ricordare che ieri Sergio Marchionne, in un'intervista al direttore di Repubblica Ezio Mauro, ha detto una cosa molto interessante. Ha detto: il mio sbaglio più grande della mia carriera è stato aver annunciato il progetto Fabbrica Italia. È stata un'imbecillaggine eccezionale, ha detto Marchionne, che poi ha continuato: comunque tutta l'attuale occupazione del gruppo Fiat è confermata. Ho preso l'impegno a portare tutti i lavoratori a casa e ha detto che spera di aumentare, di arrivare al pieno impiego entro 3-4 anni e che a Mirafiori non si chiude ma verranno concentrate anche le auto di lusso. Abbiamo detto chiaramente che Mirafiori non si chiude e che avremmo sviluppato sia Mirafiori che Grugliasco come il polo del lusso nella fiera. Molto semplice. Dunque, adesso partiamo con il tema anche delle promesse elettorali. Dopodiché, facciamo così, invertiamo oggi l'ordine dei fattori. Prima le nuove proposte elettorali, poi intanto come vanno le spese delle regioni. Oggi ce n'è per la regione Puglia, ma anche per la provincia di Caserta. Ci siamo molto occupati di Lombardia in questi giorni. Però partiamo da quello che ha scosso la campagna elettorale, una campagna elettorale tutta giocata sul tema delle tasse. Se posso permettermi qualche tentativo di una ricetta in più, non solo sulle tasse ma sull'occupazione, su politiche per lo sviluppo, uno potrebbe anche dire: va bene, le tasse sono altissime, però se tu riuscissi a ridurre, a rendere più competitivo il nostro paese riducendo quello che è il cuneo fiscale, dando incentivi alle imprese che assumono, dando anche, liberando un po' di risorse in busta paga, non sarebbe male. Il tema delle tasse invece viene declinato come le tasse già esistenti. Devo dire che per ora di grandi politiche industriali non se ne vedono, di grandi ricette, ma anche nei confronti dell'Europa non se ne vedono. Tutti hanno paura a dire che andranno a fare la voce grossa in Europa, perché hanno paura poi del discredito dei mercati e quant'altro. Se mi fate fare un endorsement non lo faccio, però cito un movimento che citiamo poco, quindi non ho paura della par condicio. Le risposte più dettagliate io in questo periodo le ho viste nel movimento Fare per fermare il declino, quello di Oscar Giannino. Almeno lì, cioè, non, io non sono d'accordo spesso su alcune cose che pensa Oscar Giannino, lo dico chiaramente, è un amico, collega di lavoro, però almeno lì c'è qualche idea concreta per dire: tagliamo, riduciamo spese pubbliche amministrazioni in questo modo e parimenti mettiamo in concorrenza i settori e parimenti riduciamo anche la pressione fiscale. Molte volte quello che si sente dire è solo la prima parte: riduciamo la pressione fiscale. Capire esattamente come reperisce le risorse è un po' più difficile, ma tant'è, e allora IMU sia. Vedo già che un ascoltatore non ha capito nulla. Ho appena detto che spesso non sono d'accordo con quello che dice Oscar Giannino e lei mi dice: ah, adesso lei si mette a fare campagna elettorale per il suo collega. Ah, guarda che, sente? Duri. Non ho detto che voto Giannino, non ho detto neanche che sono d'accordo con le sue idee, ho detto semplicemente che lì si vede qualche proposta un po' più articolata che non sia l'annuncio, lo slogan, tutto qua. Questo ho detto. Poi magari non sono d'accordo, Lui, per esempio, è molto più vicino alle posizioni tedesche di quanto non lo sia io. Tutto qui. Andiamo avanti. Chiaramente il nuovo sasso nello stagno lo ha gettato ieri Silvio Berlusconi. Via l'IMU sulla prima casa, restituiremo i soldi versati nel 2012. E allora, nel nostro primo Consiglio dei Ministri, delibereremo come risarcimento per una imposizione sbagliata e ingiusta dello Stato la restituzione dell'IMU sulla prima casa pagata dai cittadini nel 2012. Allora, le reazioni, siamo in par condicio. Stefano Fassina, responsabile economico del PD, su questa proposta di Berlusconi. Berlusconi riconosce di aver fatto tanti danni agli italiani nel corso dei suoi 10 anni di governo e per farsi perdonare prova a ripagarne un po', secondo lui cominciando dall'IMU pagata nel 2012. Dopodiché, se fosse coerente con la logica riparatoria dei danni provocati, dovrebbe restituire anche la maggiore IRPEF che abbiamo pagato grazie a lui, dovrebbe restituire la maggiore spesa per interessi sui mutui che le famiglie hanno pagato a causa dell'aumento sui tassi di interesse. Insomma, mi pare che se dovesse prevalere questa logica riparatoria, Berlusconi avrebbe molto da dover ripagare. Oh, d'accordo invece con Berlusconi Nichi Vendola, che ha detto l'IMU sulla prima casa va cancellata. Quando è stata introdotta io ho alzato la voce, ho detto che era la patrimoniale sul ceto medio e sui poveri. E quindi Vendola e Berlusconi sono d'accordo, almeno su questo, sullevare l'IMU per la prima casa. E invece Mario Monti critica moltissimo la proposta di Silvio Berlusconi, dice vuole comprare il voto degli italiani con i soldi degli italiani. È meraviglioso. Devo dire, non è la prima volta che qualcuno cerca di comprare il voto degli italiani. Un cinquantennio fa, per esempio, Achille Lauro prometteva qualche chilo di pasta o una scarpa di un paio di scarpe, con riserva poi di consegnare l'altra scarpa a voto ottenuto. Però credo che sia la prima volta che in modo scientifico qualcuno prova a comprare il voto degli italiani con i soldi degli italiani stessi. Berlusconi vuole comprare il voto degli italiani con i soldi che gli italiani hanno dovuto versare per tappare i buchi di bilancio da chi aveva lasciato quei buchi governando per 8 anni negli ultimi 10, cioè da lui. Allora, fact checking, volete sapere, che non è una brutta parola, volete sapere se è vero? Sì, è vero. Allora, parliamoci chiaro, le tasse sono sempre aumentate in questo paese, la pressione fiscale sul PIL, come percentuale sul PIL, è aumentata anche nei 5 anni del governo Berlusconi Tremonti. Fine. Dati alla mano, li trovate dovunque, andate su internet. Poi, quello che vuole fare uno nel futuro può farlo, però è giusto sapere che in quegli anni lì la pressione fiscale è aumentata, era leggermente calata per un po' nel secondo anno del governo, nel secondo anno del governo Prodi, ma per via dell'effetto famoso, che poi poco effetto ha avuto sulle buste paga, dei 5 punti di cuneo fiscale, 3 vennero elevati alle imprese, 2 in busta paga. Questi sono i fatti, vi prego, non vorrei polemiche, le tasse in Italia sono altissime, lo sappiamo tutti, però dati alla mano, pressione fiscale sul PIL non è mai calata nei 5 anni di governo Berlusconi Tremonti. E comunque anche l'ex ministro Tremonti non è d'accordo con il suo ex presidente del Consiglio Berlusconi, e questa mattina era ospite del nostro Alessandro Milan e ha detto, ma insomma l'idea di poter restituire l'IMU è un po' difficile perché potrebbero esserci problemi di bilancio pubblico. Io penso che ci siano oggettivamente un po' di problemi di bilancio pubblico. Tenga conto che chiunque vada su, chiunque vince, deve fare una manovra da 14 miliardi di economie, di tagli o, se vanno quelle del PD, di nuove tasse. Cioè lei è certo di questo? Monti, perché di Monti dice che la manovra invece non è necessaria. Esatto. Secondo lei sì? Monti ha opinioni che variano secondo la posizione e l'orario. Tutte le persone serie dicono che serve una manovra da 14 miliardi. Restituire l'IMU e eliminare l'IMU vuol dire 8 miliardi in aggiunta ai 14. Sono 22. È uno scenario un pochino complicato. Tuttavia, che la direzione sia quella giusta, assolutamente sì. Allora, e poi anche gli ANCI, cioè i comuni italiani, per voce del loro presidente Graziano Del Rio, dice attenzione, basta con i condoni, ma soprattutto senza l'IMU i comuni non possono chiudere i bilanci e diventa impossibile garantire i servizi ai cittadini. Dino Pesole del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ti ho fatto attendere perché volevo che ascoltassi le varie posizioni in cui Vendola è d'accordo con Berlusconi, Tremonti non è d'accordo con Berlusconi, però non è d'accordo neanche con Monti. Tecnicamente, fact checking, perché 18 miliardi Tremonti? Perché 4 miliardi è quello che abbiamo versato l'anno scorso, come prima casa, su 24 miliardi solo 4 vengono dalla prima casa. Però, visto che andrà versata anche nel 2013, dovresti ridare quella del 2012 4 e non intascare quella del 2013 altri 4, sono 8 miliardi. Allora, tecnicamente è possibile? Allora, guarda, sul 2013 io capisco le suggestioni della campagna elettorale, sul fisco non è la prima volta che sentiamo promesse, ma sul 2013 non c'è alcuna possibilità di ridurre la pressione fiscale nel nostro paese. No, l'IMU, solo l'IMU, dicevo. Non c'è la possibilità di modificarla, perché... Me lo dici più forte e chiaro, così lo dice un giornalista. Non c'è la possibilità di modificarla, perché il costo è esattamente quello che è stato detto poc'anzi, vale a dire 4 miliardi di restituzione più 4 miliardi di abolizione tout court dell'imposta costerebbe 8 miliardi, senza con questo cominciare ad affrontare quelle che sono le emergenze che comunque andranno sostenute. Tra queste emergenze ne cito alcune. C'è l'IVA che aumenterà il 1° luglio di un punto, dal 21 al 22%, laddove il nuovo governo decidesse di non aumentarla, deve trovare altrove i 4 miliardi che servono già iscritti in bilancio per compensare questa mancata entrata. E non solo, ci sono delle spese da sostenere che qualsiasi altro governo dovrà sostenere, vale a dire c'è una maggiore spesa prevista per gli ammortizzatori sociali in deroga e molto probabilmente per gli esodati. Le missioni internazionali di pace sono coperte fino a settembre, il decreto che è stato approvato 2 settimane fa dalla Camera non finanzia le missioni da settembre a dicembre e dunque, come vediamo, queste sono la manutenzione, come possiamo chiamarla, le spese... Spese, come se in una casa tu avessi già delle spese di manutenzione che rendo. Ecco, voglio però difendere, come faccio sempre, la controparte in questo caso, dire vabbè, però l'IMU si può, le risorse dell'IMU, scrive oggi per esempio il giornale, perché non fare l'accordo con la Svizzera, quello frutterebbe 24-20 miliardi, ridurre la spesa pubblica improduttiva, cioè uno potrebbe anche ipotizzare di trovare questi 8 miliardi, 4 più 4, fermo restando che Tremonti però sostiene che poi ci sarà bisogno di una manovra aggiuntiva da 14 miliardi perché l'economia va peggio del previsto e quindi noi sforeremo le previsioni nel rapporto deficit-PIL. Dino? Sì, allora due questioni, vediamo la prima, l'accordo con la Svizzera e il taglio della spesa. L'accordo con la Svizzera è in corso, la trattativa almeno da un anno e mezzo e da quello che so non c'è ancora rivista un'intesa. Comunque, laddove ci fosse, ma è tutto da verificare quello che poi si potrebbe recuperare. Per quanto riguarda i tagli alla spesa si possono certo fare, ma attenzione, i tagli alla spesa corrente per essere efficaci e duraturi nel tempo devono avere un orizzonte pluriennale, non è che all'improvviso a metà anno si possono tagliare le spese, si potrebbero, ma è molto difficile. Cioè tu dici un taglio della spesa che porti un risparmio magari di 4 miliardi o di 8 deve essere pianificato per adesso sul 2014. Certamente, perché sennò bisogna fare un'operazione sui tagli lineari ancora una volta vituperata e che comunque porterebbe a ulteriormente elementi recessivi, perché non è solo l'aumento della pressione fiscale che fa crollare il PIL, ma anche i tagli lineari e non la spending review vera. Altro problema, la manovra correttiva. Allora, anche qui dovremmo cercare di fare chiarezza. Se noi guardiamo i numeri, la manovra correttiva ci vorrebbe, perché il PIL quest'anno cadrà dell'1% se andrà bene, contro lo 0,2% previsto a settembre, il che vuol dire che aumenta il deficit. Però se il nuovo governo sarà sufficientemente autorevole ad andare a Bruxelles e dire signori, questo però è solo l'effetto del peggioramento del ciclo, uno sconto potremmo averlo, ma comunque non ci sono fare grandi non ci sono spazi, cioè il massimo che si potrà fare è cercare di evitare l'aumento dell'IVA, sostenere queste spese e cominciare a impostare per il 2014 una prima tranche di riduzioni fiscali che secondo me opportunamente dovrebbero essere concentrate sul cuneo fiscale e sul lavoro, più che sull'IMU. L'IMU si può ragionare, secondo me si deve ragionare su come modificarla l'imposta, non su come abolirla, perché sennò creerebbe un... Sì, però forse per i consumi sarebbe più utile, dici tu, tagliare le tasse sul lavoro, cioè quelle in busta paga, di chi comunque le paga tutte, perché lì andresti a liberare subito risorse, nel senso che poi almeno lì sappiamo che essendo una busta paga le tasse sono tutte pagate, e quindi ridurre il cuneo fiscale permetterebbe alle imprese di avere, di pagare i propri dipendenti, magari non fare aumenti salariali, e comunque e ai dipendenti di avere soldi in tasca in più, sicuri rispetto al 100 lordo che guadagnano, e far ripartire un po' i consumi. Grazie a Dino Peso del Sole 24 Ore. Oh, adesso c'è il metodo, la pubblicità, una cosa la voglio dire tranquillamente, però per me qualunque candidato, lo dico a chi sta scrivendo, può dire quello che vuole, può anche dire che da domani invadiamo la Svizzera e ci prendiamo i soldi, 130 miliardi lì depositati illegalmente, però deve dirmi come, perché campagne con questi chiari di luna, con gli slogan no, o viene, in questo caso è Berlusconi che ha lanciato la cosa, deve dire esattamente dove trova 8 miliardi, ha ragione Tremonti, mi dispiace da questo punto di vista, 8 miliardi dove li trovi? Accordo con la Svizzera, è inutile scrivere, lo dico ai colleghi del giornale Nicola Porro, è inutile scrivere l'accordo con la Svizzera, o mi dite quando viene fatto, quanto è il gettito, se no sono sparate elettorali, vale per Vendola, vale per Berlusconi, vale per Bersani, vale per Grillo, vale per Giannino, vale per tutti quelli che non spiegano come cavolo trovi questi soldi. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e adesso parliamo di borsa, poi torniamo sull'Italia e poi il Monte dei Paschi. Ripeto, per correttezza, ho i candidati, è inutile che alcuni si arrabbiano, i candidati premier indicano, come prevede anche la Costituzione, da dove arriveranno i tagli per, nel caso dell'IMU di Berlusconi. Alcuni dicono potremmo comprare meno caccia F-35, va bene, bisogna dirlo. Compriamo meno caccia F-35, poi ci saranno le proteste delle aziende che devono andare all'estero, già l'abbiamo visto, ma è una linea. Mi dice, compreremo quanti caccia in meno, adesso non mi ricordo il calcolo, ve lo vado a fare, e con quei caccia in meno ridaremo l'IMU agli italiani. 8 miliardi. Attenzione, ha ragione Dino Pesole, c'è anche l'aumento dell'IVA che scatterà in automatico se non ci sono altre risorse, al 22%, e c'è il rischio di una manovra correttiva. Ma poi non piangiamo dopo. Allora, correttezza vorrebbe, obbligherebbe a dire la manovra correttiva la faremo, non la faremo, i soldi li trovo. Questo vale per tutti, vale anche per Monti quando dice abbasseremo la pressione fiscale, vale anche per lui. L'unica vera valvola, a mio modesto avviso, è, e lo ricordava anche Dino Pesole, avere il coraggio di dire il giorno dopo le elezioni andrò a Bruxelles e chiederò alla Germania e all'Unione Europea di far passare un piano di rientro, il cosiddetto fiscal compact, più morbido, e di liberare dalle risorse europee, perché tanto non ci stiamo dentro, se no dobbiamo fare un'altra manovra correttiva e il paese si avvita ancora di più. Questo, cioè prendo, vado a Bruxelles, mi metto di traverso e a questo punto passo una linea più morbida, perché non possiamo morire per il rigore dei conti tedeschi. Fine. Nel frattempo la borsa oggi ha preso una bella scoppola, Parigi meno 3%, Francoforte meno 2,5%, Milano meno 4,50%, adesso vi do anche Madrid dal punto di vista dell'andamento azionario, ha perso il 3%, un po' più del 3%, quindi Milano a questo punto è la peggiore in assoluto, l'America perde meno 0,85%, Londra ha perso meno 1,60%, il problema è tutto nell'area euro, alle vendite è arrivato con i dati e i conti di Commerzbank, chiuderà l'anno con 6 milioni appena di attivo contro i 630 dell'anno scorso, conti peggiori delle attese, ma forse anche Morgan Stanley, che ha detto torniamo a essere preoccupati sull'area euro, ha inciso. Borsa. Allora, borsa con Livia Zancaner. Livia, buonasera. Buonasera. Dunque, Commerzbank, però un po' tanto, nel senso che Io capisco Commerz, ma Unicredit ha perso l'8,30%, il Banco Popolare il 6,90%, la Popolare di Milano il 6,5%, Mediobanca il 5,80%, Ubibanca il 5,50%, Generali meno 5,50%, Intesa San Paolo meno 5,35%, Monte dei Paschi ma ormai meno 4,80%. Era una scusa o veramente si è diffusa una preoccupazione per tutti i conti bancari? Sì, diciamo che due sono le cose. Allora, il crollo delle banche da una parte, con il settore che oggi ha perso il 2,7%, e dall'altra il ritorno dei riflettori puntati su, come mesi fa, su Italia e Spagna. Questo è legato soprattutto all'incertezza sulla situazione politica. In Italia ci saranno le elezioni di fine febbraio, ma lo scenario è tutt'altro che certo, come vediamo ogni giorno, e in Spagna vi è questo scandalo sui presunti pagamenti illegali al premier spagnolo e al suo partito, e vediamo appunto che questo ha penalizzato soprattutto i listini italiano e spagnolo, che hanno registrato le performance peggiori oggi come anche venerdì scorso. Essere penalizzato, appunto, come dicevi tu, soprattutto è il comparto bancario. Commerzbank sicuramente ha influenzato sulle vendite, ma diciamo che anche un aiuto in questo senso è arrivato dall'incremento dello spread tra BTP e Bund, che al momento tratta intorno a 286 punti base, ben 20 punti in più rispetto alla chiusura di venerdì scorso, intorno a 266 punti base. Eh sì, non è però lì, diciamo, da lì che sono arrivate le preoccupazioni principali. Tra l'altro, ma Morgan Stanley, scusami, mi sono perso il passaggio, ha influito o no? Sì, diciamo che Morgan Stanley dice che aumenta l'incertezza politica, e cioè aumenta l'incertezza e determinate aree dell'Europa tornano a rischio, ma il problema è a monte, nel senso che l'incertezza politica in effetti in Italia e in Spagna c'è, e quindi poi ci sono tutte le considerazioni del caso che influiscono sui listini. Vabbè, dopo il traffico vediamo anche gli altri titoli, comunque una bella botta oggi. C'è chi dice Giannino ha dato le proposte concrete. Ho ricordato che uno dei pochi partiti, pur non condividendone io alcune cose, che ha delle proposte concrete è quello di Giannino. Per quello che riguarda il resto, ognuno può pensare come vuole. Io dico semplicemente che bisogna dire da dove si trovano questi soldi. Alcuni vogliono sapere, guardate, banalmente, insomma, in qualunque paese occidentale, e questo vale per tutti gli schieramenti politici, chi ha governato per tanti anni, e a meno che non abbia ottenuto dei successi incredibili, ma vista la situazione in cui siamo come conti pubblici non mi sembra, non si ricandida. Centrodestra, centrosinistra, chi se ne frega, punto. No, ma questo avviene in tutti i paesi, insomma. Tony Blair se n'è andato, perfino Chirac ha mollato il colpo, cioè anche in Spagna non si ricandida, lascia andare. Non è che si ricandida il partito, chiaro, ma magari con altri leader, tutto qui, insomma, dai. Questo è un po' il problema dell'Italia, che poi quando parla con un esponente politico che ha governato negli ultimi anni è difficile dire perché non l'avete fatto prima, quando tra l'altro c'erano condizioni anche macroeconomiche migliori di adesso. Abbiate pazienza con il fiscal compact che abbiamo promesso alla Germania. Io non capisco veramente come si faranno a trovare i soldi, o vai a rinegoziare in Europa tutto, ma questo è un altro discorso. O tagli il sociale, e però lo devi dire, o tagli caccia F-35, lo devi dire, tutto qua, solo coerenza. Allora, di nuovo in diretta a Livia Zancaner. Al di là dei bancari, oggi molto male anche Finmeccanica, meno 6,70%, e Mediaset meno 6,30%, pure qui arrivano notizie che riguardano anche la Spagna. Sì, allora, su Mediaset diciamo che il bilancio resta comunque positivo dal 10 dicembre, cioè il titolo da quella data ha guadagnato il 20,6%, ricordiamo che il 10 dicembre è il giorno del ritorno in campo di Silvio Berlusconi, ma oggi sono arrivati dati negativi sugli ascolti televisivi in Spagna, dove Mediaset controlla Mediaset e Spana. A gennaio infatti le reti del gruppo concorrente Antena 3 hanno registrato la stessa audience di Mediaset e Spana. Oggi la controllata spagnola ha chiuso in rialzo a Madrid, ma nelle ultime due sedute aveva perso circa il 10%, penalizzando quindi anche le quotazioni della controllata italiana, che oggi, come dicevi tu, ha perso circa il 6,3%. Telecom Italia negativa anch'essa, perde il 4,86%. Telecom Italia questa settimana Vi sarà giovedì il CDA sui conti preconsuntivi del 2012, ma soprattutto sarà diffuso il piano industriale. Secondo gli analisti si prospetta un taglio del dividendo del 30% circa, in modo da evitare così un taglio del rating sul debito della società da parte appunto delle agenzie di rating. In caso contrario, Telecom Italia, secondo la stampa, diventerebbe un emittente speculativo con pesanti riflessi sugli oneri che l'azienda dovrà pagare sul debito. Quindi comunque l'attenzione è focalizzata sul CDA di giovedì e poi sulla conference call che vi sarà venerdì. Allora, un titolo positivo, ma insomma ha perso moltissimo, ha perso un terzo del suo valore la settimana scorsa, Saipem più 0,55%. Si è saputo qualcosa? Mi interessa di più l'incontro tra i vertici della Saipem e la Consob, l'autorità di vigilanza? In realtà nulla, fino al momento non vi sono stati comunicati né da una parte né dall'altra. Comunque l'incontro si è tenuto questa mattina, ricordiamo che l'incontro era per far luce sulle vendite che hanno colpito il titolo mercoledì scorso dopo l'allarme utili. Saipem aveva infatti perso in una sola seduta oltre il 34%. Adesso ti faccio una domanda difficilissima: quant'è il valore in borsa di un'azione di Seat Pagine Gialle? Allora, il valore di un'azione è poco superiore allo zero al momento, 0,0015 euro. Ok, cioè siamo a un millesimo, io non ho mai visto, adesso mi dispiace per gli azionisti, ma 0,0015 euro è, no, vuol dire praticamente un valore inesistente. Oggi ha perso un altro 25%, ma ti chiedo, ma non esiste un limite come valore in cui poi il titolo verrà bloccato, smesso di essere trattato? Chiedo. No, non credo, nel senso che a meno che non arrivi quindi ad uno zero, cioè ad una zero, perdita totale di valore, ma... Sì, io però vorrei sapere, ma se valesse 0,001, a chi lo vende? Cioè, chi è che se lo compra a zero? Capisci cosa ti sto dicendo? Cioè, tu vendi un'azione a 0,01... La vendi a zero, l'altro che te dà? Zero? Chiedo. No, assolutamente. Infatti, solitamente in questi casi si fa quell'operazione che si chiama raggruppamento delle azioni. Però credo che aspettino di vedere il futuro della società. Vabbè, ancora male. Quanto ha perso dal 28 gennaio Seat? Dal 28 gennaio ha perso oltre il 72%. Mamma mia. Vabbè, una società che praticamente non esiste più, possiamo dirlo tranquillamente, tenuta in vita. Mentre Irene è andata bene oggi, Arena più 5,77%. Poi incredibile che però Seat Pagine Gialle sulle risparmi ha fatto più 4,20 a 0,87 centesimi di euro. Irene. Sì, Irene ha guadagnava più del 2, poi ha chiuso a più 0,8%, e secondo quanto riportato ieri dal Sole 24 ore, la società energetica è pronta a presentare il nuovo piano industriale con un obiettivo principale, che è quello di ridurre a 2 miliardi l'indebitamento, e questo target dovrebbe essere raggiunto anche attraverso la cessione di attività non strategiche. Grazie, è andata bene oggi invece anche aeroporto di Firenze più 2,91%, Ascopiave più 3%. Parleremo di aeroporti, ma soprattutto dell'Alitalia, che ha due fronti aperti, perché c'è il fronte Carpata Aerea, quello che è successo ieri, ma dall'altro c'era il CDA, il Consiglio di Amministrazione, che è slittato invece a lunedì prossimo. Manca un accordo fra i soci di CAI sul finanziamento un ponte da 200 milioni di euro, in attesa di capire a chi verrà venduta l'Alitalia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di Alitalia e poi anche del Monte dei Paschi. C'è chi dice, ma insomma, vista la giornata di borsa, le assenze di proposte concrete con le coperture per come uscire da questa situazione, la borsa oggi ha perso il 4,50%. C'è qualche notizia positiva? Sì. L'Italia ha battuto la Francia in una partita storica ieri all'Olimpico, alle Sei Nazioni. Questa è una grande notizia positiva. E a proposito di Francia-Italia, ma questa volta all'Italia, Allora, mentre il leader del PDL Silvio Berlusconi ha detto mi opporrò a qualunque vendita all'estero di Alitalia, la nostra compagnia di bandiera vive due fronti. Uno molto concreto, cioè l'incidente di sabato, la TR-72 della romena Carpata Air che è finito fuori pista. E tra l'altro sono, vabbè, oltre a due feriti gravi, ci sono due inchieste aperte, una interna a cui partecipano anche un investigatore francese, uno romeno e uno della procura di Civitavecchia. C'è poi questa vicenda un po' singolare della livrea, cioè i colori di bandiera presenti sull'aereo, sulla Carlinga, che sono stati rimossi nottetempo e quindi adesso non è più di nessuno quell'aereo. Ma in realtà si va a vedere un insieme di incidenti, contrattempi già accaduti negli ultimi mesi. La situazione non è bellissima perché c'è stato un incidente il 17 gennaio, la TR-72-500 nella tratta Ancona-Roma, sempre dalla Carpata Air, era dovuto tornare indietro dopo 45 minuti per problemi di pressurizzazione, tant'è che l'Alitalia ha deciso di ricoprire, cioè fornirà lei il servizio fino a fine febbraio con propri aerei per il volo Ancona-Roma. Ma il 4 gennaio c'era stato un altro incidente, il 12 dicembre un caposquadra all'aeroporto di Pisa si accorge che un velivolo sempre dalla Carpata Air perdeva carburante durante il rullaggio, decollo bloccato. E poi il 28 maggio all'aeroporto fiorentino Vespucci il comandante ha visto accendersi sul pannello di controllo una spia che segnalava incendio ai motori, l'aereo diretto a Timisoara è stato fermato sulla via di raccordo, quindi quando stava, se ho ben capito, per decollare. E poi il consiglio di amministrazione di Alitalia. Gianni Dragoni, buonasera. Buonasera. Dunque, il CDA di Alitalia è stato rinviato a lunedì prossimo. E da, rinviato. Da quello che capisco manca ancora un accordo tra i soci della CAI per il finanziamento ponte da 200 milioni. A cosa serve questo finanziamento, Gianni? L'Alitalia ha finito il carburante, ha finito i soldi, la liquidità diciamo è in crisi, c'è una crisi di liquidità, avrebbe bisogno di una ricapitalizzazione. I soci in realtà stanno cercando di vedere di vendere le loro azioni, come sappiamo, però non c'è un accordo. Allora, come via intermedia, la settimana scorsa era stata avanzata da Colaninno, da Banca Intesa, sono loro un po' che conducono il gioco, la proposta di fare un prestito. I soci dovrebbero prestare circa 200 milioni alla compagnia, in modo che poi, se eventualmente dovesse andare in porto la vendita, questi soldi potrebbero anche essere restituiti, si vedrà. Però una parte dei soci minori, diciamo i soci italiani sono 20, poi c'è l'Air France che ha il 25%, ma diciamo sta un po' alla finestra. Tra questi 20 soci, un gruppetto che possiede intorno al 20% della compagnia, sono detti anche un po' i rivoltosi, perché sono scontenti delle perdite, non hanno partecipato alla gestione e fanno resistenza, quindi hanno cercato di sfiduciare il presidente Colaninno la settimana scorsa, ma la mozione è stata respinta. Però è singolare che in un gruppo di 20 soci alla fine è finita 13 contro 6 questa mozione, e comunque questi soci, la loro quota varrebbe circa 50 milioni nel rifinanziamento, loro non vogliono mettere i soldi, quindi in attesa di vedere se trovano un accordo su chi mette i soldi o meno, visto anche il clima che si è creato di più difficile con l'incidente di sabato, hanno pensato che si sarebbero fatti meno male rimandando alla settimana prossima. Eh sì, perché c'è uno scontro anche dentro appunto il consiglio di amministrazione, dove i piccoli azionisti, come tu ricordavi, che hanno circa il 20%, capeggiati da Salvatore Mancuso, che guida il fondo lussemburghese Equinox, insomma contestano la linea troppo filo francese nelle trattative da parte di Colaninno e vorrebbero guardare anche altri orizzonti. Come si inserisce in questo la vicenda apparentemente tecnica, diciamo, di funzionamento del Carpata Air? Perché insomma qui diciamo che se i simboli hanno un loro peso, vedere scomparire la livrea dall'aereo, non è stata, dalla fusoliera, non è stato il massimo. Questa manina che di notte ha cancellato, ha tolto la maglia dell'Alitalia, sotto c'è una maglietta bianca col simbolo della Romania, significa, diciamo, un po' come dire che c'è il concetto di vergogna, no? Si vergognavano di avere questo aereo lì accasciato a bordo pista. Ma in questa vicenda c'è anche il fatto che l'aveva appaltato delle rotte, perché questi erano voli comunque nazionali, da Pisa, da Ancona, poi in seguito all'incidente ultimo di Ancona che tu hai ricordato, il volo allora era stato spostato da Bologna a Roma, cioè quel tipo di aereo, perché il presidente della regione Marche ha protestato un imprenditore importante, Guzzini, e ha detto non prenderemo più gli aerei dell'Alitalia per andare a Roma, quindi hanno preferito spostare il volo. E il fatto di aver affidato a una compagnia, diciamo, piccola, sconosciuta, che ha costi molto più bassi, usa anche degli aerei, insomma, di livello, l'Alitalia li ha tolti gli ATR dalla sua flotta, pur essendo degli aerei collaudati, ma bisogna sempre vedere la manutenzione e anche gli equipaggi, se comprendono bene il linguaggio, gli equipaggi devono anche parlare con la torre di controllo, quindi ci possono essere vari problemi. Aiuta, sì. Per esempio so che in Cina, un problema che c'è a volte in Cina, si dice che i piloti si parlino bene con le torri di controllo, ecco, cioè parliamo a livello generale. Quindi in questo caso aver dato un appalto comunque a un paese che nell'ambito del trasporto aereo non può essere annoverato nella fascia, diciamo, di serie A, è il bel segno già questo di un tentativo di limare proprio di una compagnia che è in difficoltà economico-finanziaria dall'Italia già da un po' di tempo. Quindi forse già questo passo è un passo che andrebbe un po', sul quale bisognerebbe riflettere e capire perché vengono fatte queste operazioni. Tra l'altro non c'è neanche una piena trasparenza, come dovrebbe essere sulla carta, verso i consumatori, verso i passeggeri, i quali sono convinti di comprare un biglietto di volare, quindi con gli standard. Sono convinti, c'è anche i colori dell'Italia sopra, non è che sì. Sembra che i passeggeri, esatto, siano un po' così, uno monta su un aereo, no, con i colori dell'Italia. Legittimamente, cioè, no, infatti, di avere standard di sicurezza anche dell'Alitalia, poi non è così. Quindi il costo non è da low cost, ecco, questo possimo dire. Esatto. Low cost, peraltro, ecco, insomma, un po' dubbio, perché ci sono delle signore low cost, come la EasyJet, un caso. Farà la Roma-Milano, no? Sono giudicati idonei. Ecco, senti una cosa, visto che la situazione per l'Italia si complica, perché c'è stata anche la sentenza sulla Roma-Milano, perde il monopolio, i soci che litigano, secondo te come si chiuderà questa vicenda? Alla fine, passate le elezioni, la venderemo ai francesi, sì, arriveranno gli arabi, i fondi, che però hanno già detto di essere... Allora, questi soci dimostrano comunque di aver ritenuto concluso il loro compito che gli era stato affidato poi da Berlusconi 4 anni fa, quasi 4 anni fa e poco più. Loro non hanno più voglia di mettere soldi. Allora la domanda è chi metterà dei soldi, perché chiunque arrivi qui ci vogliono dei soldi dentro la società per farla andare avanti, per farla volare. E siccome nel trasporto aereo si sono già fatte delle grandi concentrazioni internazionali, in Europa ci sono solo 3 grandi compagnie che poi aggregano, Lufthansa, Air France, insieme a KLM e British Airways. È difficile pensare di non poter essere aggregati, semmai si tratta di vedere quali sono le condizioni, eccetera. L'alternativa sarebbe solo che tornasse a mettere soldi lo Stato, visto che comunque imprenditori italiani che dimostrano di credere nel trasporto aereo, di investire, non ce ne sono. Magari c'è chi ha i mezzi, però non se ne vedono, quindi forse è meglio prendere atto che sarebbe bene integrarsi in un grande aggregato internazionale, cercando di ottenere anche delle garanzie di poter fare che vengano fatti anche dei voli diretti, una buona copertura. Questo si sarebbe potuto fare già nel 2008, invece è stata fatta un'operazione che, lasciando poi i debiti allo Stato in nome di una presunta italianità che non è decollata, è costata almeno 3 miliardi di euro alla collettività, certo, non averlo fatto allora. E torniamo quindi, come nel gioco dell'oca, al 2008 sull'Alitalia. Resto abbastanza sconfortato per questa vicenda della livrea che viene fatta sparire notte tempo. Grazie però intanto a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Adesso, dopo il traffico, ci occupiamo del Monte dei Paschi. Vi leggo però un'agenzia che hanno appena battuto tutte le mail dell'ex presidente del Monte dei Paschi, Giuseppe Musseri, relative al periodo fine giugno-ottobre 2007, presenti sul suo personal computer e sul server di posta elettronica del Monte dei Paschi, sarebbero state rimosse volontariamente, e emerge la circostanza da un'informativa sull'inchiesta relativa all'aeroporto di Ampugnano, e ora gli atti nell'acquisizione, nell'indagine sull'acquisizione di Anton Veneta. Quindi sparite le mail dal PC di Mussari, recitano le agenzie. Ma questo, se vogliamo, è un qualcosa di a margine rispetto a quello che oggi è emerso. Il mercato da tempo attribuisce al titolo Monte Paschi uno sconto molto forte, molto più elevato rispetto ai propri competitor sul patrimonio netto. Questo, a mio avviso, è sintomo del fatto che ancora il mercato non crede a quello che potrà essere il miglioramento dei fondamentali implicito nel piano industriale che abbiamo approvato e iniziato a realizzare nella seconda parte dell'anno scorso. È indubbio che le vicende che hanno caratterizzato i giorni scorsi hanno avuto un effetto sull'andamento del titolo, non poteva che essere così. Il contraccolpo emotivo sul, diciamo, le notizie che sono apparse sui giornali, i riferimenti quotidiani e continui alle questioni giudiziarie, ovviamente non potevano avere effetti sulla quotazione di un titolo bancario. Quello che posso dire è che dal punto di vista gestionale la banca sta continuando a operare assolutamente in modo regolare e anzi sotto questo profilo devo dire con grande un grande sforzo da parte di tutti, prima fra tutti i dipendenti che sono evidentemente tutti i giorni messi alla prova e stanno dimostrando un grande attaccamento, una grande professionalità. Così Fabrizio Viola, microfono della nostra Valeria De Rosa, ha spiegato, insomma, è normale, è comprensibile che la borsa ancora non creda al nostro piano con tutto quello che è circolato sul Monte dei Paschi. Viola però ha anche detto non stiamo e non lo sta facendo soprattutto Alessandro Profumo, il presidente, non stiamo assolutamente cercando nuovi soci, anche perché, in questo gli ho dato atto di molta onestà, nuovi soci non ce n'è pronti ad investire nel Monte dei Paschi, e anche questo è abbastanza comprensibile visto il momento che stiamo vivendo. Per quanto riguarda la polemica, posso assicurare, come peraltro ha fatto lui, che non si sta assolutamente muovendo per cercare nuovi soci, anche perché in questo momento nuovi soci non ce n'è pronti a investire in Monte dei Paschi, e questo è abbastanza comprensibile visto il particolare momento in cui stiamo vivendo. Detto tutto ciò, ricordo che a ottobre l'assemblea degli azionisti ha deliberato di dare un mandato al Consiglio di amministrazione per una delega per aumenti capitali di 1 miliardo con rinuncia al diritto d'opzione. La rinuncia al diritto d'opzione, ricordo, presuppone che questo aumento di capitale sia presumibilmente sottoscritto da azionisti oggi non presenti nel capitale della banca. Ricordo che questa operazione di 1 miliardo è prevista a piano industriale, quindi è uno dei tasselli necessari per assicurare il pieno rimborso dei Monti Bond. Quindi sotto questo profilo la posizione del Presidente mia è quella che ovviamente ci auspichiamo che si creino in tempi brevi le condizioni per un interesse da parte di soci finanziari stabili di qualità per la banca, perché è un passaggio importante per assicurare il pieno conseguimento del piano e il pieno rimborso del supporto governativo denominato Monte Bond. Sì, Viola fa riferimento ai Monte Bond, perché una parte sono Monte Bond, poi c'è l'altra parte tra i Monte Bond, complessivamente quasi 4 miliardi di euro. Non si placano invece le polemiche, o perlomeno una parte politica non le vuole placare, con la Banca d'Italia, nonostante il richiamo del Presidente della Repubblica. E oggi Giulio Tremonti, l'ex ministro, ospite nel nostro programma 24 mattina con Alessandro Milan, ha detto, insomma, la Banca d'Italia ha operato gravi mancanze, non solo lei, vi sono state gravi mancanze negli organi di vigilanza, sempre sul Monte dei Paschi. L'operazione, diciamo, più discussa è quella che la Banca d'Italia avrebbe dovuto bloccare subito, è del 2007. Nel 2007 io ero all'opposizione, non conoscevo Mussari e comunque io con Mussari non ho mai avuto rapporti particolari. Con i banchieri gli incontri riguardavano l'andamento dell'economia e gli interventi, questi erano gli oggetti degli incontri. Nel 2007 c'erano Prodi e Padoa-Schioppa, se proprio vuole che le ricordi come sono le cose. Ma lei definirebbe il Monte Paschi la banca del PD? Dipende un po' da loro. Io so che ci sono state gravissime mancanze da parte della vigilanza della Banca d'Italia. Ci sono state nel 2007 dove l'anomalia, tra virgolette, sistemica era super stra evidente, silenzio. Ci sono state nel 2010 quando arriva un rapporto e te lo tieni, dicono ostacolo alla vigilanza, auto-ostacolo alla vigilanza. E quel rapporto dice conteneva documenti, c'erano documenti nascosti nelle cassaforti di Siena. Erano documenti nascosti nelle cassaforti di Roma, in via nazionale. Risulta agli atti del Parlamento, quel rapporto è stato depositato, redatto, scritto dagli ispettori a Roma, 2010. Siamo nel 2013 e non hanno ancora dato una sanzione. Nel frattempo è esploso lo scandalo, un caso in cui non è stata la vigilanza che ha informato la magistratura, ma la magistratura che ha informato la vigilanza. Questa è l'opinione dell'ex ministro Tremonti, a mio avviso, ognuno può pensare come vuole, io continuo a dirlo, senza voler chiamare, diciamo, accusare la Banca d'Italia, la Consob, ma continuare a dire che tutto ha funzionato negli organismi di vigilanza, che ci hanno solo, non ci hanno fatto vedere le carte, quando in realtà l'allarme era stato lanciato già nel 2010 dagli ispettori, secondo me è un po' riduttivo. Uno dovrebbe dire, ci assumiamo anche le nostre responsabilità, qualcosa ci è sfuggito, non può esplodere uno scandalo del genere nella terza banca italiana e gli organismi di vigilanza hanno fatto tutti il loro dovere, perché sennò si trema veramente. Comunque, Raffaella Calandra, la nostra inviata sulla vicenda Monte dei Paschi, buonasera. Buonasera Sebastiano, a te nostro qui ascoltatore. Lo scontro è anche tra il CSM, ha aperto una pratica per la sovrapposizione di inchieste, perché ci si è messa anche la procura di Trani, ma insomma gli sviluppi di oggi, perché hanno sentito questa mattina a Roma Antonio Rizzo, l'ex funzionario della Dresdner Bank, quello che ha raccontato già nel 2008 la banda del 5%, mentre Mussari ha detto che mancando l'altro avvocato non era disponibile oggi a farsi interrogare, ho ben capito? Sì, ha detto che ha intenzione di parlare, perché lui da indagato può avvalersi anche della facoltà di non rispondere. Ha detto invece che ha intenzione di dare la sua versione dei fatti, ma un altro giorno, non oggi, proprio per precedenti impegni in Cassazione di uno dei suoi difensori. Di sicuro, diciamo, più passano i giorni, più i fronti su cui i magistrati senesi vogliono ascoltare l'ex presidente di MPS e dell'ABI, soprattutto l'uomo che più di tutti volle quella contestata trattativa per l'acquisto di Anton Veneta nel 2007 aumentano, perché anche dagli atti di un'altra inchiesta in cui Mussari è indagato, quella sull'aeroporto di Ampugnano, emerge ora anche che ci sia stata una rimozione volontaria di tutte le mail dal suo PC nel periodo tra giugno e ombre, quindi qualche dubbio, qualche, diciamo, perplessità i magistrati la hanno, insieme ad un altro fronte a cui noi Radio 24 vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, che è quello che conduce fino allo IOR, ossia all'esistenza di due conti aperti all'interno dello IOR e che sarebbero riconducibili a manager MPS. Il sospetto è che ci possa essere un legame anche con la trattativa Anton Veneta, quindi è un ulteriore fronte da analizzare. Contemporaneamente, questo avveniva a Siena, contemporaneamente, come accennavi già tu, a Roma la Guardia di Finanza, il nucleo valutario, ha ascoltato appunto Antonio Rizzo, il grande accusatore della banda del 5%, che ha confermato le sue accuse nei confronti dell'ex capo dell'area finanza e del responsabile della filiale di Londra, ma ha anche confermato di aver già depositato a Milano delle registrazioni che suffragerebbero, insomma, a supporto di quello che lui ha detto, che si tratta del colloquio che lui ebbe con Michele Cortese, il responsabile per Dresdner a Londra della vendita di prodotti finanziari, perché fu lui a riferirgli dell'esistenza della banda del 5% all'interno di MPS. Dunque comunque settimana densa di interrogatori che proseguiranno con altri nomi importanti come quello di Divigni oppure quello del presidente del collegio sindacale di Tanno, quindi è un momento diciamo centrale dell'indagine. Sì, ci mancava pure che sparissero le mail dal computer di Mussari e che si ipotizzasse di conti correnti nello York, la banca del Vaticano, per ingarbugliare ulteriormente questa vicenda, ma tant'è. Grazie a Raffaella Calandra. A chi è in ascolto, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Domani vedremo come andrà la borsa. Volete sapere chi si è appena messo in collegamento? Ha perso il 4,5% oggi, una bella scoppola con tutti i bancari che hanno perso tra il 5 e l'8 e 30% di Unicredit. Domani un altro giorno, come diceva Via Col Vento. Intanto buona serata, a domani dalle 17 in poi.